corrispondente di manovra fra 20 più 100, sono 120 più 100, 160, quanto è la manovra che sta chiedendo? È capitato per me, siccome a me mi ha fatto da poco il tendicinghia tutto quanto, un mesetto fa neanche, mi ha detto guarda, mi date a me anche quel cuscinetto, però non sapevo qual era il cuscinetto, lo stavo comprando, ieri è venuto, ma non lo comprare, già te lo do io, ce n'è uno io, nuovo, che l'ho sostituito. Infatti, quello lì, ma non credo che siano identici comunque, il mio Volvo, anche se abbiamo lo stesso motore, perché ho visto nel dischetto, il mio è 120 cavalli, tu quando c'hai il 90 cavalli il motore tuo? E uguale ha detto, dice che c'è questa pulizia, non è il cuscinetto, è la pulizia rotta proprio, dice che c'è anche una specie di frizione, è uguale alla tua, dice cosa c'ha qui su di per quello. È una frizione lì, però cambiano gli spessori, sono uguali nel senso che si può mettere anche quella lì, però devi cambiarti la cinghia. Siccome io ce l'ho già la cinghia, per la cambiata, per non cambiarmi la cinghia e avere due cose, mi mette proprio esattamente quello che ci vuole. Però magari può essere uguale anche il tuo, però non è detto. Io ho visto nel dischetto c'erano 5 o 6 tipi, mi riserva diversi modelli. Comunque, quasi che siano i murubrizzi, già sto dicendo così io. È preciso, guarda, c'è un motore del 156, la macchina mia. Cazzo, la mia si può bruciare. Solo che non conviene perché le tracciare come la terra, che l'hanno già fatto un lavoratore del genere, il Salvatore, così si insultava le ruote a terra, se non la normale la mia come sei, anda troppo che la mia anda. Sì, non c'è problema, dai, entriamo sul 21, poi vabbè dai, ci sentiamo per calma, ti devo dire le altre cose, con calma ci sentiamo, dai. Vabbè io... vediamo un po' là, io vado un attimino sul 21, poi magari rientra lì, rientra lì. E allora basta dire spostiamoci senza dire né nulla e noi andiamo direttamente là. Ciao. Ciao, va bene, dai. Ti ascolta. Attento Mondino. Luca, mi terra, pensa ad esempio il TRM. Qua è Santiago, adesso per quello che l'ascoltino per Luca, forse un po' cosa, come si chiama? Calore della Zedro oppure Smith, era un po' troppo. Non mi viene la parola. Troppo generoso. Beh, non lo so, io per esempio il Giammondino la casa non lo sentivo, io non lo sento. Se non è che il vento mi ha buttato un po' a caso il radiale, però sono entrato tardi. E l'antenna non l'ho manco vista, perché quando c'era vento così di subito la controllo. Però oggi sono arrivato col buio e niente. Ciao. Dimmi una cosa, questo è il Saturnecco, così è. Ciao. Sei di nuovo a Pernacchiette col microfono, a Pazzillo. Fino a quanto scende in basso il Saturnecco? Come banda? E forse ha chiamato qualcuno. Chi è che chiama? Avanti. Chi è questo? Avanti, non si capisce niente. Chi sei? Sei tutto a Pernacchia. Ma tu sei Mondi? No, forse mio figlio... Vabbè, forse mio figlio che sta provando a cercare di usare quella magnetica a casa del suocero. Ma attento a non far danno, qua c'ha dei rientri allucinati, Mario. E cosa vuoi che ti dica? E sicuramente il microfono che non va. Vabbè, rimanete anche lui. Sì, è di fronte a me, vicino al campo sportivo, vai. Ciao. Ti stavo dicendo, quanto scende in frequenza giù il Saturnecco? Ma c'ha... da là, come bande, e scende sino alla F. Poi c'ha CW, FM, M, USB e LSB. Allora, non so cosa c'ha, ma quando scende a 26, 26,5, 26,300, l'hai provato, dai? No, adesso guardo, da un secondo, te lo dico, quando scende quanto sale? Ehi, ho una curiosità, c'ho. Dai, ti aspetto qua. Ah, vedi ancora ci sei. Attenzione, canale 21, chi vuole entrare avanti. Ciao. Ciao, Antone, mi hai sentito? Ah, Davide, tu sei che si scende così tutto per l'acqua. Davide, se sei tu che hai due colpi di portante, che non si capisce cosa sta dicendo. Forse non è Davide. Lo chiedo anche a te, Antone, una curiosità. Il Saturnecco quanto scende di frequenza? 25 315 25 315 25 315, sì, infatti casava bene, un giusto giusto, sono giusto. E mi hanno fatto vedere uno che scende a 26 060, così non scende, ma sono tutti uguali o cambiano? Allora come un cesso, sono tranquillo. Il mio non è quello, Il tuo quanto scende? Adesso mai sta guardando il suo. Quanto scende il tuo? Il mio proprio scende niente, il mio l'ho ridotto. Certo lo dico. Come mai mi scende il doppio di quello che facevo io? Infatti facevo 40 calore in più. Hai venduto il Saturnecco con 100 euro tu? Sì, esatto. E chi l'hai venduto per curiosità, se si può sapere? A Natalino. Era quella data lì, no? Sì, sì. No, mi sento l'ho regalato. Appunto, l'ho regalato. Sarà bene, perché l'abbiamo sentito e anda. Non so, non so. Comunque c'è 40 cavalli comunque. Scende notte da 20, da 25, 615 a 28, 315, se non ricordo male. Capo di positivo. Dimmi, Mario. Quella rete adesso, le 25 615 sale uguale sino a 29, va? No, 28 315. Ho detto quasi a 29. Ma io ho sentito che ce ne sono versato anche a 32. Sì, modificate, grazie. Ma lì fate una buona... Se per questo parlo anche la 32, la 27 non ce l'hanno, che c'entra? Ci sono anche qui 200 watt. Non c'è da niente, però bisogna modificare, il discorso è quello, non è più un Saturnecco, è un Saturnecco modificato. Ci sono anche rischi, la PNL, già lo sai. Dimmi una cosa, a livello di curiosità, l'Intec, quando tu li vuoi aprire, non intendo affatto nulla, perché è solo per capirci, io ho l'Intec in trazione base, che diciamo è derivato da un baracchino normale, no? Sarà solo un po' più grande, l'hanno messo l'alimentatore, c'ha 40 canali, questa cosa, MFM, se uno lo può aprire, so che si può aprire, come cacchio fai a fare le base di lì? Che 52 c'ha, se si può fare, non lo so, potrebbe fare 15 watt per dire, però per i canali non lo so, dipende dalla PNL anche, c'è un sacco di cose, non è così facile, no? Se si può modificare, si modifica, se c'è se guarda per dire a Midland 40 canali per dire, si può fare 120, se no no. Ma quello che voglio dire, siccome c'è il display, ci sono i canali digitali, da 0, da 1 a 40, se tu fai la modifica, come fai a capire in che canale sei, non l'hai compreso? Perché secondo te il stato me, con una segna da 40 a 80, non è assolutamente, ci sono gli scatti, fa da 1 a 40, da 1 a 40, da 1 a 40. Sì, ma c'ha le mani A, B, C, D, eccetera, eccetera. Ma questi modificati, quello che non riesco a capire, vedi, il Mubi come modificato, io l'ho visto, è andato 40 canali, e poi ci deve fare A, B, C, D, eccetera, eccetera. Idem nell'altro che ho i 497, però di lì quello è tutto digitale, entri nella tastiera, nel programma, non devi modificare niente, è originale così, perché fai un doppio tasto e ti entra nel programma nel menu, entri, non è tutto regolare, nel senso non devi modificare niente. Però se tu c'hai un baracchino che c'è 40 canali e non hai un commutatore di banda, come faccio a sapere se è nella banda A o nella banda B o eccetera eccetera? Non lo puoi mai sapere, allora non lo modifichi tu, scusa, il discorso è quello. Comunque, gli ultimi che abbiamo fatto sono ABCD, quello che è, però in quelli vecchi non c'è ABCD, c'è scritto meno 40 più 40 più 40, capito? Nei primi 120 canali sono usciti. C'è il cattivo che mettevi là una cosa e te lo segnavano sopra. A quel punto devi mettere un frequenzimetro esterno. La schedina è fatta, va bene così. C'è tutto a quella che hai tratti, non so se sei Duchende. Ho detto, non c'è bisogno di frequenzimetro, sono fatti così, normali, capito? Senza frequenzimetro. Beh, ti faccio l'ultima domanda, ma poi così non lo polverizziamo. Io ti dico, un'area 48 che non c'ha il commutatore di bande, c'ha solo 40 canali. Se io lo voglio espandere a 120 canali, come ti porta a sapere se sono il canale 40 o se sono il canale 80, se ci si arriva a 140 l'indicatore, quello lì che ti voglio dire. È come l'Inter che, vabbè, niente che com'è con la 120 canali. Allora, lo metti giù e sei nel canale di sotto, lo metti in mezzo e sei nel canale normale, lo metti sopra e sei nel canale alti. E così semplice, c'è un tastino che cambia a me. E più ti dà la commutazione per il canale, giustamente. Però cambia, solamente il tastino qua, 0, 1, 2, capito? Praticamente quando sei nello 0, sei nel canale normale. Quando sei nell'1 sei nei canali bassi e quando sei nel 2 sei nei canali alti. Come dite che c'è 120 canali, né più né meno. Ecco. Quindi ci devi mettere un interruttore, un commutatore che ti indichi cosa stai facendo. Allora ecco, proseguiamo, facciamo entrare questo becco che non si comprende nulla. Ciao Capri, dopo fatti sentire. No, c'è un altro segnale qua, chi è l'altro che parla? Ma che è tuo figlio Mario? Allora? Sì, ha appena detto di passare 23 Capri. No, ma c'è un altro qua abbastanza forte che non si comprende nulla. Chi è? Chi sei? Ma c'è una cosa sì. Chi sei? Guarda, non capisco chi sei. E Mario, non hai capito chi è? No, non ho capito chi è, tutta una tornacchia. Avanti di nuovo, parla lentamente e dimmi chi sei. C'è qualche problema, non è che c'hai la batteria esaurita del microfono o qualche cosa di strano? Se sei Salvatore Maestrale, dai due colpi di portante. Il segnale è Salvatore 9+20, però non ho capito chi sia. Dai, chi può essere? Davide, tu sei, batti un colpo. Adesso è 9:20. Mondino lo passa perché è troppo forte. Quando è arrivato Emanio? 9:20. Non so chi sia. Attenzione, prova a cambiare il microfono, non che non c'è dei rientri, ma anche se c'è rientri un po' la voce si dovrebbe sentire, non si comprende nulla, si sente un ronzio forte, amico, non lo so chi sei, non lo so, cerca di migliorare, se no non riusciamo a capire chi sei. Ma sei Davide, se sei Davide dai due colpi di mic. Quasi il segnale tuo Mario, ma non penso che sia lui, se mi sei di scendere con l'antennino. Ma lui arriva qui da me, Santiago 7, non arriva manco a 9, figuriamoci se mio figlio, no, questo mi sta arrivando a 9:20. Va bene, di nuovo avanti e vediamo un po' di capire chi sei. Però parla con l'alfabeto rosso, cacchio. Non lo so, non vorrei che sia, no, ma se arrivano per 20 a te non può essere quella persona che conosco io, perché qua arriva molto più forte, ma se arriva più basso del normale a te ti dovrebbe arrivare 0, non lo so, a meno che non sia esatta che può essere. L'altro giorno chi c'era? Quello che arrivava più o meno lo stesso segnale anche a te, può essere Fabietto? No, non credo Fabietto. Vabbè, tu sì, dai due colpi importanti. Non lo so, Allora cerca di metterti a posto, se no non capisco chi sei. Riprendi tra Mario. Oh, scusate. Perché stavo facendo così, non ho capito. Che cosa lui? Ma cos'è che sale? Che sale? Sono indietro per risalire da solo. Non ho capito, sale le sono indietro. Allora, non mi cazzare. No, sta per vedere una cosa qua. Batte. Aspetta. Ecco perché. Tutti in faccia. Dimmi una cosa, ma l'hai inventato le tue, stacci attento alla tensione Luca, è importantissimo mi cacchia. Il mio è 13,8, ma fisso è, non è regolabile. È regolabile, anche non tocca. È regolabile quindi? Ah. Ma stai attento, anche la carina a me non me ne sono accorto, mi è caduto sotto, siccome ce l'ho sotto i piedi in un angolo, sotto un piedistallo, l'alimentatore, mi è caduto un coso, ma me ne metto cosa, a fare il microfono a vite, mi sa. Non me la sono accorto, l'ho toccato, era molto sensibile, tacco, mi è salita la tensione a 16 volt, tacco, schiaccio la portante, avevo il baracchino, cioè, siccome c'è la protezione, e addirittura il suicidente, l'inchino sotto c'avevo 16 volt di tensione, con il rischio di bruciare tutto, stai molto attento, anche se è sottoalimentato, per dire, anziché dargliene 13,8, ne dai 12, non funziona il baracchino, per dire, funziona male in FM, me l'ha capitato a me, non riuscivo a cavarne i piedi, perché ho detto, ma come mai, cazzo, non funziona, e mi sono accorto che erano 12 volt, se non c'è più di 12 volt non funziona il baracchino. Io non ce l'ho accorto, infatti l'altra volta quando mi ha dato Claudio, cazzo, mi sto qua, l'alimentatore me lo, con la presa, la squapponi che accendevo, mi sentiva tra, no, lo accendeva, boccavo qua, non accendeva l'apparecchio, mi sono reso conto che era a masso di voltaggio, l'ho aumentato e sono già acceso, sono già luce, non sa, non accende. Allora io quando me l'hanno restituito questo qua, sono andato a provarlo, perché le loro guardie in FM non funzionano, come non funzionano, ho tenuto tre giorni, un giorno il laboratorio funzionando, con tutti i muri, ho detto guarda che ce l'ha detto, ma come c'è come l'alimentatore? No, l'alimentatore è a posto, tutto a posto, io gli ho detto controlla l'alimentatore, ho sollevato di, per dire, da, erano 13, quasi 13 erano, 12.8, ho sollevato da 12.8 a 13 e funzionava l'FM, figurati quanto è sensibile l'apparecchio. Però meglio metterlo a 13.5, 13.8 come tensione. Sì, sì, ma infatti così, chi è rimasto Robert? C'è Mario, c'era un attimino Capri con Antonio, poi si sono spostati sul 24, 23 numero, e poi c'è questo qua, un apportante 9.20, che non si capisce cosa sta dicendo, sta provando qualche baracchino perché parla e non capiamo chi è. Aspetta, lo facciamo rientrare, avanti di nuovo l'amico. Era Yugi. Chi? Yugi. E che è Yugi? Un uomo sta entrato, quando ha fatto un mettere un conto andava bene, poi a fischi e non si capiva niente. Cioè non va bene, mi metto un po' di cappa, gli vai in ghiaccioli. E a preparare che il fine settimana di nuovo tempo brutto, addirittura lunedì mattina presto è prevista la neve sciolta. Io lo guardo lo stesso, Robè. Mi porterà buro che c'è un buco molto la tennis, io lo guardo lo stesso. E siamo fuori anche. E va bene, allora ti Maria. Sentite in compagnia mia di Luca e Mario Max. Ti ringrazio, ciao Mario, e poi vediamo un po' chi è rimasto. Ciao Domenico, buon lavoro con tutto. Allora, tu hai iniziato un buon lavoro a lavorare, o sei già lontano, cappa. Deposito Sisa nella 131, dice si sente il passo. Comunque Domè, tieni presente che stanno usando il Saturn Echo e anche a me non è che sta arrivando fortissimo rispetto a come l'ascolto in altre situazioni. Comunque io ti ascolto bene, non c'è problema. Lui ha detto Mario che c'ha QRM alto, non lo so. Io oggi solamente è tutto basso, pulito. Guarda questo passaggio se mi ascolti meglio. 1, 2, 3, prova, gatta ci cova. Sono passa. Vabbè, ma sei in basso qua, 9.20, 9.40 sempre. Ti sei abbassato Mario? Acceso, non è ancora caldo, Ti sei abbassato un po', ma è cambiato apparato Mario? Via, sono grande qua. Guarda, c'è qualche problemino, non è questione di cosa. Proprio guarda che commutatore bene, che abbia fatto lo scatto bene. Mario, sei troppo basso. Ma lui è Luca, non è Mario. Vai Mario! Ti può attimino che facciamo un po' di ordine. Aspettate, Domenico, un attimino che vediamo chi c'è qua su questo canale. Avanti, chi voleva entrare? Lui con la portante muta. Ma mi sa che non ci riscende. Mario, sei Santiago Lopemi, c'hai qualche problema grave, stacca tutto. Ciao, con il dito un conduttore d'antenna. No, con il dito Mario, di quella stacca per stacca nel di antenna, non se sta in questo parte comune, non so l'altra volta. Ha bruciato un coso, con la parecchia 40 e 120 canali, voi bruciate gli altri, stacca nel tutto e fai quattro antenne, riprendi una all'altra, non per fare così. Ok, aspetta, adesso vediamo. Domenico, un attimino. Domenico, ci sei ancora? Mi ascolti? Sì. Questa salita a provare, ho sentito un pugno. Leggero, leggero, poi glielo sentito. A me mi tiri fuori bene, ho problemi, c'è. Perfetto, una bella entrata. Aspetta, l'ho portato sopra. Cosa hai detto, Domenico? Adesso vediamo se Mario si risolve il problema, nel frattempo ti rilancio a Luca. L'hai sentito Luca, Domenico? Ciao ragazzi, non lo sento. Popolio, ora va bene? 9.30 sì Mario, quasi mutato 9.30, Mario si fa 9.40 tu. Dopo la tua accesa, non trova bene con il tuo segnale, vedi tu ma già sì. Farò scaldare e poi sei 9.40. No, è basso, non è questo il segnale di Mario, molto basso, almeno 10 dB ha perso rispetto alla norma, non è questo nel scaldare, c'è qualche problemino lì. Sto facendo un coso, un tempo. Purtroppo Devo la completare adesso. Di quello che c'ho. No, tanto ci viene una meraviglia. Infatti ho detto, se tu il giorno che ti metti la mantovaglia lì, tu fai schiacciare un po' di gente, non vi credi? Io devo il falchetto, io ho letto il falchetto. Guarda ora come va, Pupù. Adesso sei tu. Va meglio, sì, tutto a posto. Adesso sì. La batteria no. La batteria sì, invece, perché l'ha appena acceso, il segnale è giusto. Va bene, appena acceso arrivava a 9.35, Mario mio, adesso è 9.25, cioè 10 dB in meno di quanto esce normalmente. Ma se una scena attorno, non so arrivare a 50 watt, ma io voglio cose subito, mi sembra che sia stato scritto nel fermento, ma se una cosa allucinante va bene, così con i microfoni, quando va bene, parlato non va bene, se va svuotato subito, non va fatta una tecnologia, se è arrivato al limite non ti credi nessuno. Dicevo, io conosco Mario, conosco il segnale suo, perché lo conosco da parecchio tempo. So quando c'è lui, quando è attaccato, so quando è attaccato. Cos'è questo? Va bene così, perché è il segnale suo. Lascialo scaldare perché il primo è stato acceso. È da 25 watt. Fa 5-10 minuti e 50, non è che il segnale torna come prima. Come piaceva a te, non è uguale. Mario, poco fa allora il Saturnetto acceso per dirti. E il Saturnetto era acceso l'apparecchio, il segnale suo con Saturnetto era intorno alle 9.25, 9.20-25, come mai era 9.15, spiegamelo tu, che problema vedeva il segnale? Mamma mia, guarda, sei un coso tu, la verità, sei un coso. Non so cosa dirti. Avanti, Mario, ripeta. Ehi, allora, non ce n'è problemi. Adesso sono più basso sicuramente. Adesso è più basso sì, poco fa di nuovo, adesso sei 8. Lui dovrebbe andare meglio. Adesso sei più di 50. E sei stato, devi farlo scaldare, che cos'è questo? Ma lui ha toccato il processore invece, Mario. Non ha toccato il processore. Discorso. No, non ho toccato nulla, no. Non ho toccato nulla, solamente che è freddo, perché l'avevo appena acceso, perché mi veniva male accenderlo con tempo e niente, poi ve l'ho detto, io sono rientrato una mezz'oretta fa, da, e stavo parlando direttamente con quello là, anche perché l'antenna era commutata per quello là. Adesso ho spostato un po' di robe e ho acceso questo qui. Ma cosa c'è? C'è due minuti acceso questo qui, boh. Comunque l'importante è che mi ascoltiate, tu il resto è poca importanza. Già scalderà prima o poi. A voglio lo scaldare, prima o poi. Ma se va bene. Appa, sono contento. Vabbè, tu sei abituato a sentire boh. E cosa è più tutto sulla vetta, non lo so cosa è. Sembra, che ti posso dire, no, non lo so, mi affermi lui è una gran cosa, l'ultimo mi affermi, cioè, ci sono le buone, con le persone, in anni proprio così, deve controllare quello che c'è. Buonasera, Pomponio. Buonasera anche a lui, signore. Allora, domani ti trovo a casa, Pompone. Penso di sì, non lo so, oggi in campagna, si va a passare la moto zappa con la Meridio, di Colina, ma sincera la verità, eh. Allora mi conferma se ci sei domani, che devo portare l'apparato e il microfono da mettere a posto. Che si devono essere verso le 5, devo dire io. E da verso le 5 passi qua e cioè mi chiami e poi di qua passa, non c'è problema. Solo che telefono, qual è il problema? Ok, allora ti faccio chiamata, domani salgo 5, 5, 4, 5 e mezzo massimo a casa, dai. E d'accordo, sera. Ok, riprende Mario. Scusa se sono entrato così di brutto. Che mancherebbe. Sei entrato e hai fatto il provvedere come tutti quanti quando ci preme qualcosa. Tutto qua. Cappa di roccia. Bene, bene. Così è. Bubu. Un attimo per mettere in cosa. Mi raccomando. Cappa. Si è rimasto qua. Ciao, qualche. Comunque non dico più nulla, così non vado a piedi, dai. Ogni volta che dico le tre cose qualcuno ci rimane male, eh? Non dico più niente. Cosa non? Ecco, per Mario. Scusa, stavo in ghiotta e non penso di cosa. E che Mario era più basso della normale, dice che è tutto a posto, boh. Si pagava, io lo stesso, boh. Va bene, non ci ho fatto a casa, la verità, Mario. Venga. Ma come mai poco fa sei sceso a 9? Non ho capito quello, l'hai messo a zero l'apparato. Figlia. Va bene, non lasciamo perdere. Vediamo un po' se c'è qualche altro qua sul 21. Attenzione, canale 21 chi vuole entrare. Vai da me, i canali alfa ero, capita, mannaggia, la miseria. Sul 20 canale alfa ero io. Oh, vabbè. Ma adesso? Ma proprio adesso. Non me ne sono accorto io. Guarda che passo adesso sul 21 per se c'è qualche cambiamento, dammi conferma. Sono sul 21 e ti sto ascoltando bene. Da adesso non è? Niente. Ah, non è successo niente, ero sul canale alfa io. Mannaggia, sul 20. Qua tutto a posto. Cappa di roccia. No, me ne sono accorto io adesso. Ok, ok, ok. Riprendi tu, non me ne fai girare. Sei molto interessato, non vedo a girare. Volevo dire, è stato Capri un attimino poco fa, però non lo sento adesso. Chi sei Capri? Non l'ho più sentito né a Gianni, né a Pierpaolo, né a Giuseppe, che fine arriva? Beh, cosa vuoi ti dire? Non lo so. Quindi ci siamo stati anche un po' in frequenza, c'era Salvatore, c'era Claudio, c'era Luca, c'era Mario, ma non è entrato nessuno. Non saprei cosa dire, non saprei veramente cosa dire. Lo so, è un esempio nuovo in frequenza. Ok, avanti Maria. Cappa, io sono un paio di giorni che non sento a vela. Non so cosa dire, non sento a vela. Stamattina ho sentito Massimiliano andando al lavoro. Però molta gente, non lo so, prima c'era un periodo, prima di salire era tutto pieno il 21, adesso quattro gatte. Saprei che di, non saprei che dire. Domenico, a proposito, Domenico poco fa l'abbiamo accompagnato, c'erano con Plaghi e poi abbiamo staccato perché lo sentivo solo io, ho detto vabbè, salutate a tutti e poi ho detto ci sentiamo. Bene, ti sta arrivando Roberto, non è quanto l'ho detto. Sì, c'è stata una portante, chi è avanti? Chi era che è? Avanti, chi vuole entrare? E anche un attimo. Hanno sovramodulato la falchetta, figura di gassegnaliera. Vai Mario. Ehi, Gappa, io ho problemi comunque qua, Ti sei abbassato di altri 10 libri, cosa ti rende buon pugno? Stai giù tu che stai andando male tu, Mario. Staccane tutto, o ti metti l'antenna diretta o c'è problema di stazionaria, controlla tutto, perché tu stai andando molto, ma molto più basso del normale. Cosa? Mario. Meglio qua. Vabbè. Un attimino, Mario, prova un attimino. Adesso vedi se va meglio. Sempre basso. Nulla Mario, sì, almeno 15 dB di quanto esce normalmente. Andando nuovamente sul treco e io non modulo più perché mi si interrompe il segnale del TV. Non è che c'è qualche cavo in corto, ma che cosa, se il spezzone è messo male. No, la roba io non ho toccato niente, chiedeva, funzionava tutto bene. Io quando schiaccio la portata mi si interrompe il segnale dalla televisione, non vorrei disturbare gli altri. Babbo, ciao Perugi, tutte alle prossime. Ehi, in ogni caso Mario, ho trovato in bene le stazionali e tutto quanto. Ti saluto, buon tutto. Avanti, faccia te pure con lei. Salutoni Mario, buon tutto. No, no, Robert, ti stavo dicendo che Bela si è trasferito al 10. Non lo so come mai. Se vuoi modulare è solo sul 10. Vabbè, io vado a tutti i canali, non è che ando solo un canale. Se c'è gente vado anche sul 10, no, non me ne ha fatto nulla a me. Kappa kappa. Vabbè, chi è che tu sei Antone? Tu sei Antone? Sai che quando state parlando ho avuto una portante più forte di te, ti ha schiacciato. Addirittura. Luca, tu sei? Non lo so, infatti sto chiedendo se è Antonello, che è l'unico che ha segnali così forti qua vicino a Antonello. Antonello, tu sei? Chi è avanti? No, io sono stato in coro, lo fa sempre. E vabbè, dai, interrompo anche io, dai, stavo sganocchiando qualcosa, però non si può sganocchiare così vicino alla radio, non è corretto, dai. Vi saluto, semmai ci sentiamo dopo. Ciao Falchetto, ciao Mario e tutti gli amici eventuali in ascolto. Ciao ciao. Ciao. Ma la portate Falchetto, non sarai tu invece ti sei sopra modulo nella giura. C'hai un fischio mi Falchetto. Come sta si portate, ti arriva, io pensavo fosse qualche la sopra modulato. Sei tu si sente più un innesco. Che stai fischiando. Non parlare niente, non dire niente, ma da solo portante. C'è un innesco. La cosa bella è che ti aumenta un bel segnale, come se si parte questo innesco, poi si abbassa un pochettino e poi scompare. Non ne ho proprio idea, è una cosa mai sentita, strana. Come schiacci portante ti fa, si fa una sovramodulazione. Poi si abbassa il segnale e si sente il bip e ritorna tutto normale. A vedere un po', adesso è ancora meglio adesso, dai. Vedi un po' adesso. Ah, è sotto il bip, vedi un po' adesso. Non parlare, ma è la portante. Niente, ce l'hai sempre, Falche. Ma cosa, il microfono? Invece il problema del microfono è troppo amplificato, non lo so, perché come attacchi siete qui un fischio forte. Strano però, eh. Strano, e vabbè, lo controlleremo. Adesso tutto a posto, ma non è che stai schiacciando un po' col tasto tu? Guarda bene adesso. Adesso l'ha fatto. E adesso? Sempre. Adesso? Adesso non l'ha fatto. Allora è questione del microfono, va. Adesso l'ha rifatto di nuovo, ma deve essere il microfono, ma vecchio questo microfono. Qua questo si sente un fischio così. Non lo so. Ma già tirato bene il connettore nell'apparato. Sì, già è stato bene. E la batteria è buona, non è che va la batteria già vita, no? No, questo è un Profcal. Ora c'è il compressore col microfono. Ah, normale. E boh, è strano, un difetto mai sentito. Boh, vabbè, c'era il microfono, boh. Non l'ha fatto per dire, è stranissimo. Vabbè, di nuovo fa che controllatelo meglio, magari. Ti saluto, ciao ciao anche a tutti gli amici eventuali in ascolto. Kappa. Va bene, dai. Adesso niente, sono uscito pulito. Ma no, non sto uscendo dall'altra radio, eh. C'è qualche radio vicino accesa, no? Che ti fa rientro qualche radio, no? Aspetta che vediamo un pochettino. Mi pare proprio che la radio a me di dire delle palle. Aspetta. Aspetta 2 secondi. Adesso. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5. Parlo di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5. Tutto a posto, allora era l'altra radio troppo vicino, ce l'avevo. Mi pare che tu muovi perché se tu non fai, boh. Vabbè, di nuovo, ciao, fate. Eia, ciao Robe, buona carica, buon tutto, alle prossime, ciao ciao. Chissà se è calcolato, se è stato calcolato la tensione di voce che c'hanno i funghi. Guarda, so che era stato calcolato in mia, però è in media, ma adesso sinceramente non me lo ricordo, non me lo ricordo. Però già è stato calcolato alla mia, diciamo, non proprio perfetta, perfetta, ma in mia, quanto è di voltaggio, ma lo so più di cosa, però non me lo ricordo adesso. Ma che tu, come ti sai, a fulmine? Ehi, non ti trovo a fulmine. Io con la bufera che stavo dicendo Gianni, l'ho passata, stavo lavorando a Sassari, e tutto a tratto si è fatto buio, inizia questo vento forte, a piovere forte, forte, forte, lui eravamo sul ponteggio, addirittura smontando il ponteggio. Se ne siamo parati camminenti, guarda, ti dico che era uno spettacolo da vedere. Io, se sapete cosa stavo pensando mentre stavo andando. Cosa stai pensando? Quando ho visto quell'affare all'antenna ho pensato subito che c'è più l'affare all'antenna. Un minuto di bianco già e vado a scaricare. E invece poi sono tornato a casa e ho trovato a integra. Ma ho saputo che ha fatto un po' di danni. Addirittura alberi che sono caduti sulle macchine. È un casino combinato. Ehi, ti scoppicchiati, un casino ha fatto a Sassari, per carità, ne senti un poco ambulanze, pompieri, ui. Prego. Avanti Giuseppe. K di positivo, queste ambulanze di sirene io non le ho sentite però, Buonasera Palchetto, mi rispetti. Buonasera Giuseppe, ben entrato, ben ascoltato. Buonasera Giuseppe. Ciao Anto, ma questo vento poi, dove l'avete sentito voi? No, oggi, stavo parlando di settembre. Settembre? Ma settembre quando? Di 2 anni fa, l'anno scorso? L'anno scorso, quando ha fatto quella tromba d'aria. Quello era un alito di vento, non era tromba d'aria. Tromba d'aria l'ha fatta, cosa sarà, la settimana scorsa che mi ha buttato mezzo mondo qui a Sassari. Ma sentite Giuseppe, ho visto alberi io cadere, perché io stavo viaggiando e quando è successa quella tromba d'aria, io li trovavo sulla strada solo sui vidriati, esattamente dopo agli adori, quella fila di alberi che c'erano, uno praticamente mi è caduto proprio davanti alla macchina, ha fatto il tempo a fermarmi, meno male che erano i rami fini, e ho rallentato e ci sono passato sopra, infatti ci avevo perso una fattana lì. Cazzo, alberi cadenti, alberi grossi, non piccoli, ma alberi enormi, cazzo, i cassoniti a Porto Torres che andavano da soli, cazzo non era tromba d'aria. Leva lì dove c'è Monterraso, all'inizio di Monterraso ti scendeva, ti arrivava fino al cofano. Quella l'ho conosciuta anch'io, ma ci siamo dimenticati 2 settimane fa che cosa ha fatto. Ma non era quelli belli, secondo me, Giuseppe. Io non lo so, ti posso dire che acqua ne ha fatto, vento ne ha fatto, guarda, a volta, anche qui ne ha buttato giù alberi, non so se voi avete detto la Nuova Sardegna, tempesta di vento su Sassari, terrore in città, danni e cose, anche qui dalle mie parti ne ha buttato giù alberi, scoperchiato tetti, avete sentito anche quello che è successo su Viale Umberto? No, non l'ho sentito. Ho visto che dove c'è il palazzo lì di Chiarello, che cos'è Budi, che quello che c'è a Predanino di fronte alla centrale del latte, c'è tutta quanta la copertura in catrame che sembra stesa, scende dal palazzo, capito, è a penzolo. E quello è proprio il minimo, diciamo, di danno che ha combinato la tromba d'aria di 15 giorni fa. Il Viale Umberto ha distrutto un paio di macchine. No, ragazzi, vero, non ho sentito questo. Vabbè, comunque quella là era grossa, c'era l'acqua alta, se mi sono spaventato, ho visto un remoto in casa che si stava avventurando, e tu questo è pazzo, questo qui non ce la fa, lo butta a terra questa qua che gli stava venendo contro, perché scendeva da Monterra su con violenza, e poi tutta i fanghiglia, ci aveva dei tritti di cose, erba. Ma tu non sai come ha fatto la macchina, ci ho preso anche la fantana, erano legate a fascetta le fantane. È K di positivo, l'acqua è brutta, è brutto il vento, è brutto tutto, però anche l'acqua già si fa valere, non so se avete visto anche il telegiornale oggi, quello che è successo in Coso, ma è, non lo so a cosa stiamo andando incontro. Io sto parlando proprio di quello, dice che la costa terrestre è stata fatta una crepa di un centimetro pari a mezza Italia. E cosa vuoi che sia? Poi non è niente, per carità. Poi dice che con questo terremoto si è spostata anche la sfera terrestre addirittura. Il coso dell'asse terrestre si era già spostato di qualche decimo di millimetro quando c'è stato il famoso terremoto lì nelle isole, adesso non mi ricordo dove fosse, pare che è successo o l'anno scorso o 2 anni fa, dove c'era stato quello tsunami. Comunque è un casino, troppe cose stanno succedendo insieme, terremoti, allagamenti, frane, mi suona strana questa situazione. Papa di positivo, Franchetto, lei che cosa ne pensa di questa situazione che si è venuta a creare così, diciamo all'improvviso? Cosa devo dire? Il tempo mi sa che si sta andando a farsi benedire. Non sono più tempi di prima, che la primavera faceva primavera, l'estate faceva l'estate, l'inverno faceva l'inverno, e compagnia bella, non c'è più una stagione giusta, caro Giuseppe, e più sta andando e più il sistema si sta, diciamo, distruggendo. Papà, ti posso dire anche una cosa, e questo io ho letto diversi, io sono, non è che sia appassionato di queste cose, mi piace essere documentato più che altro, e diciamo che i libri, la storia, le persone che studiano tutti questi eventi qui dicono sempre che quello che studia la natura prima o poi se lo riprende con gli interessi. Si conferma. Il discorso che ho fatto poco fa io, questa è la ribellione della natura nei confronti dell'uomo che sta inquinando e rovinando tutto. Papa di positivo. Avanti l'amico Bombolo. Purtroppo è così. Però si dice anche che se non farebbe tutto queste cose qua dopo un po' di anni, se non avrebbero i terremoti, i vulcani, eccetera eccetera, dice che scoppia la terra, scoppierebbe se non avverrebbe quello. Ma io la verità vi dico, vi ripeto, le seguo queste cose, le leggo in internet, sto lì sempre a spulciare diverse cose perché mi piace essere documentato di queste cose qui. Però una cosa che a me ha fatto rabbrividire è che hanno fatto un esempio che non è che mi stesse tanto bene, anche se magari parlo un pochino non con un cordiccia, con un pochino di coso, di adesso non mi viene la parola data, però vi posso dire che effettivamente dati alla mano funziona veramente così, perché adesso vado a bere un bicchiere d'acqua, mi rinfresco la gola, poi vi dico. Ma non manco tu asciugasci Giuseppe. Gamma gamma. Capito dove non si è sentito stasera? L'ho sentito poco fa, non è entrata. Non lo so. Anch'io, non l'ho sentito. Viene un attimo di bianco e mi squilla il portone. Mi riprendo subito. È il basso di modo avanti, io? Sì, io. Ecco, sapevo che ti dico. Ogni tanto riprende malore. Ciucu ciucu ciucu ciucu. Parli. Salve, santo. Allora, stavo parlando della crosta terrestre. Come posso fare? La crosta terrestre. Johnny. Sì. Ma non si capisco. Non va posta. Mentre stavate parlando voi della crosta terrestre, appunto, c'era quello che metteva portante, che la crosta c'era, ma non è terrestre, però, Cosa la crosta sta sentendo? La crosta posteriosa. Io si dice, si è una partita di calcio, c'era qualcosa del genere. E allora? Perché lui la crosta ce la piscia, però non è quella terrestre. Avanza. Ciao Gianni, la K2, un saluto a tutti. E allora, non andiamo. Ciao K2. Si continua ad andare avanti. Siamo tutti qua riuniti, stavamo parlando appunto di queste catastrofe che stanno succedendo, terremoti, alluvioni, tutto in questo periodo. Cazzo, mi sta strano che stia facendo una cosa del genere. Ma questa qui è la ribellione della terra, della natura nei confronti dell'uomo. Una rottolata che stanno succedendo già. Si dice nel 2012, finisce tutto, ma chissà. Siamo anche a una pensione, signor Alfonso, non è possibile. Io sono già in pensione, mi scelto pure la panza. Non c'è pensione, c'è fa travaglio. Va bene, ma se la vado con tuo padre. Sì, ma siamo fermi già un bel po'. Via, andiamo bene di parlarla. No, è male, casino meno. E come mai vi siete spostati di canale? Ah, perché abbiamo deciso così, dai. Non voglio dire il perché e per come, ma onde evitare. Capisco. Io ho acceso poco fa il 21 e sentivo soffiare basta. Ma magari c'è anche gente, non lo so, ma io lì non c'entro più. Entro qua e basta, oppure in altri canali, ma qui, ma lì no. Appagare. Andate, detto questo abbiamo chiarito di tutto. Quando vuoi venire siamo qua. Ok, positivo. E niente. Ascolta, ma esistono dei baracchini che si collegano anche al computer? Esistono dei baracchini che si collegano al computer. Ma io penso di sì, però non li ho mai avuti. Vabbè. Ma vorrei sentire parlare di adesso non so che marcare. Dovrebbe essere della ICO. Che si collega al computer, però non so, ci vorrebbe forse sicuramente qualche programma, non lo so. Ma ICOM non è già un baracchino, è un HF sicuramente. C'è un programma che praticamente ti dice dove ci sono i collegamenti da fare, tutte queste cose qua. Ma comunque sì, ci dovrebbero essere. Adesso per tutte le innovazioni che ci sono, io non ce l'ho, ti ripeto, perché non ho attacchi USB, quindi non penso che si possano attaccare, però penso che ci siano. Ma tu vorrai uno ICO? No. Io ho apparecchi 27, non ho apparecchi radioamatoriali, non posso avere apparecchi radioamatoriali. Ma dunque quelli lì no, cioè avendo uno di quelli no, non posso sentire magari voi o roba del genere. Sì, ci sono gli apparecchi radioamatoriali che vanno anche in AM, naturalmente sono solo predisposti, devono essere deve essere messo la EMA, capito? Devono fare una modifica per metterli in EMA. C'è una predisposizione comunque che ci va. No, però non sento parlare, stiamo parlando su internet, però io non capisco nulla questo HM, questa roba lì, non c'è problema, quando si sa, si risponde, non c'è problema. Vai, sei lì, sei mai andato? Sì, ho visto, già i preti si muoveranno, allora sinceramente non mi interessa. Ma conviene comprare dei negozi belli, compri roba nuova, almeno sei sicuro, sui belli possono fottere anche. Dici, nel tipo che non funziona non puoi farci più nulla, no? Nel tipo che tu gli mandi i soldi e non ti mandano l'apparecchio. Ebbene, non puoi pagare dopo le carte dal banco, o subito ti puoi pagare. A secondo delle persone, non sono tutti. Ci sono molti che vogliono poste o PayPal oppure vale a postale prima che mi mandati a fare il pacco. Vabbè, ecco, io ho buscato un microfono, però questo microfono non ha l'attacco come questi qui che lo attacca e c'ha la rondellina. C'ha una specie degli attacchi del telefono, del cavo del telefono. Facendo qualche saldatura non si può mettere questo attacco qua. E che microfono è? Ce l'hai però non so. No, ho capito. Sono quelli radioamatoriali praticamente. L'attacco. Sono come quelli del telefono, Però c'ha otto fili così. Otto casino. Boh, non bisogna se va bene anche per quegli apparati. Perché l'impedenza bisogna guardare. Guarda quanto c'è l'impedenza, me lo fai sapere. E dove lo leggo? Ma dietro ci dovrebbe essere scritto. Avanti, Giuseppe. Sì, buonasera, ciao K2, ben sentito. Cosa mi stai combinando? Niente, proprio niente, ma non c'è però senso della parola, niente. Mannaggia, tempi che stiamo conoscendo adesso, dicevano che la crisi era nel 2009, mi sa che la crisi sta appena iniziando nel 2010, Cristian. Ma se sentito dire, dice che per settembre se ne riparlerà con lavoro, però adesso c'è la crisi, è molto più. C'è un sacco di gente ferma, ma ti dico veramente tanta, ne stavo parlando anche stamattina, e guarda, non lo so, io voglio vedere se dove arriveremo a parare con questa situazione che si sta venendo a creare. Andiamo a piantare, non mangiamo la capacità. Conviene qualcosina, ma almeno tanto per me. Stiamo ritornando, secondo me stiamo ritornando come ai vecchi tempi. Chi ha qualcosina magari riesce a piantarsi qualcosina, secondo me riesce a tirare la giornata. Sì, ma è così, piano piano, sembra così, ma alla fine sempre stiamo tornando questo come ai tempi, come erano prima. È il K di positivo. E l'antenna, sei riuscito a fare niente? No, nulla. No, guarda, la verità non l'ho neanche toccata. L'avevo sollevata un po', ma non ci sto neanche pensando proprio adesso, la verità. Ti posso capire, dai, ci sono cose ben più importanti del coso, del baracchino, ci mancherebbe altro. Ok, fai di comunque ciao, non ti ho salutato. Tranquillo Cristian, è come che mi abbia salutato non una volta ma 10 volte, vai tranquillo, vai. Avanti Pierpaolo. Ciao Giuseppe, tu sei entrato nell'attimo che io sono andato a svuotare il secchio. Buonasera K2. Ah, Pierpaolo. Sera dalla parte mia, K2. Oh Cristian, per quanto riguarda l'antenna, quando abbiamo un pochino di tempo qualcosa già si riesce riesce a fare, dai, per quello non preoccupiamoci, piuttosto dell'altro, che poi basta, tanto quel numero ce l'hai, basta un colpo, una qualsiasi cosa, per quello, diciamo, quello è il minimo, dai, non ci sono problemi, anche perché ultimamente stai uscendo anche bene. Sì, non c'è problema. Tranquillo, se c'è qualcosa già faccio uno schifo, non faccio. E niente, sicuramente quando sono levato la volta l'antenna un po' di più, sicuramente funziona un po'. Ma io te lo confermo alla grande qui, perché qui perlomeno nelle mie coordinate mi stai arrivando sei, i 9.40 e radio 5, poi non so gli altri cosa ti possono dire, riprendi tu doppio a noi, vedi un po'. Vabbè, io ce l'ho qui dietro però, attenzione. Vabbè. UHF puoi usare solo l'LPD in UHF, UHF non li puoi trattare tutti, sono banda radioamatoriale che ci vuole patentino per usarla. Ah, dunque no, io con questa cosa che ho fatto dico questa licenza e non si può scusare, ci vuole qualcosa, non capisco. Appa. Io ce l'ho. Che mi senti? Io ce l'ho. Ce l'ho. Chi hai? Vabbè. Il CQC, e lì posso andare. Domani. K di positivo. C'ho anche il K. A te sei Giuseppe. K di positivo. Io il CQC e anche il K. Quindi nelle bande amatoriali ci posso andare tranquillamente. Entro, esco come voglio io. Giuseppe, sei robotizzata, ma sempre le routine. A cosa? Come si prende? Alla motorizzazione io l'ho presa, amico, la cosa, Cristian. Oh, è il K. È il K. Il K è per trasporto persone, e il CQC è per tribolare qui insieme a questi ragazzi che ci sono qua sulla 27. Va bene. Prima si diceva CQ5, CQ6. Adesso quando vale la motorizzazione si dice dove prendere le CQ5. Passa sabato il pubblico l'argento. E via lo sportello, dico, ai che sporcaccione che è lei. Ma Giuseppe, ma che combini? Su che andiamo, vela, la sento un po' spento stasera, che è successo? Io ho spento il pulsante stasera. Stanco sono. K di positivo, anch'io sono pressoché a una chigina per fare. Sono fuso, ma non mi sento neanche tanto bene. Che c'è abbattimento, non posso parlare. Cosa c'è? C'è abbattimento io. Abbattimento? Via. Andiamo sul 45? Chi c'era questo abbattimento? Non abbattimento. Da Roberto. Ali. E sicuramente gli sta creando problemi qualcuno lì in zona. Non c'è nessuno. Come non c'è nessuno? Sul 21? Via. Cosa? Via. Come via? Tutti sul 21. No. A che? Come a che tutto? Via. Proviamo a vedere chi c'è sul 21. Proviamo. Via. Come a? Ma non c'è nessuno. Oh. Ma chi c'è? Sì. Ma che? Le cartelli del cielo. Avevo fatto molto casino in chimica. Via. Ma ci avranno riconosciuto? No. Motivasso. Dove? Luigi, so pure io, mamma mia. Ma comunque non c'è. Non c'era nessuno lì sul 21. No. Canale lasciato a sé oramai, mannaggia, è un peccato comunque quando giro su quel canale lì sentire la desolazione che c'è. Se ne abbiamo riempito un altro per lavoro. E capa di positivo. Ma voi Natalino, avete saputo niente della macchina? Se era serio il danno oppure se era una bufala? Prego. Sei registrato un prego. Guardi, prego. Ciao, sono Yuri, ma la fate una prova? Vieni avanti col cestino della merenda. Buono. 3, 1, 2, 3. E qua se tu scusi sui 10, sei già occupato, già va, non su 40. Yogi? Oh. Yogi? Mezzo casino. Avanti. Yogi, C'era Giuseppe che se non ero stava dicendo qualcosa poco fa, avanti. Sì, stavo dicendo all'amico Yogi, andiamo a rubare il cestino delle merende. Sì, stavo dicendo poco fa, abbiamo fatto un salto sul 21, Gianni. Oh, quel remme al massimo è, non c'è una mosca che vola. Oh, Giuseppe, c'era le candeline. Marchetto! Ehi, Aderpa! Quel segreto sul 31, vai! Appa! Beh, tu ti sei preso, se ti è andata. Cava. Nuovo passaggio, poi che? Dove? Vai. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capo, positivo, visto tutto, dai. Ok, riprendete. Positivo, mannaggia. Cosa riprendiamo? Mi stavi chiedendo di non salire la mano. Capo di positivo. No, meno di guai, Giuseppe, stamattina siamo andati, non l'avevamo manco guardata, poi siamo ritornati, c'è di passare fra un'ora e poi non ha fatto nulla, perché è andata a prendere il pezzo che ci aveva rotto, e poi quando è arrivato col pezzo per montarlo si è accorto che c'era un altro rotto, quindi da 70 euro sono 200 euro che deve pagare. Azzarola, e che pezzo se non sono indiscreto? Ma la ciglia, di ciglia mi pare, poi un altro ingranaggio, non so cosa sia, non mi ricordo. Ma comunque ha tre pezzi che sono da cambiare. K di positivo, mannaggia, è sempre il discorso che allo zoppo la spina, forse è andato così a casa piccola. No, perché devo sapere per come controllo. Ma che? Dimmi, Giuseppe. Segui un controllo, zio Giuseppe è qui, No, Giuseppe, perché mi ha chiesto di andare sul 31, sono andato sul 31, poi sul 10 mi ha detto basta, ha controllato tutto. Boh, non capisco il perché di questo controllo, Perché probabilmente conosco i segnali e devo regolarsi qualche cosa. Ma il mio segnale? No, te lo spiego io che non so il perché. Per vedere come risuonava l'antenna, capito? Perché siccome ti può dare un segnale, per esempio in un canale passato può dare un segnale, in un canale alto te ne può dare un altro. Gappa. Bene, riprendi Giuseppe, dimmi come ti sto arrivando con le coordinate, cambio. Cappa di positivo, l'amico Panchetto qui sta arrivando alla grande, 6, 9 e 30 con picchi di 9 e 35, radio è perfetta. Cappa, ti ringrazio, non ho cambiato il tuo segnale. 9.25, radio 5. Cappa di positivo. Io adesso, visto che sono in questo canale qui, mi dovete scusare ma devo fare un attimino una prova. Mi dovete concedere proprio 2 secondi di portante. Cappa. Posso? Cappa. No. Come preventivavo, un casino nero. Perché? Perché le stazionarie è al loro. Si è preoccupato. Perché è un casino nero? Le stazionarie è uno. È proprio minimo. Lo so, come faccio io a dare su a arrampicarmi allora se le stazionarie rimangono così? Ma questa volta salgo anch'io, Giuseppe. Ti do dove il palo. Sì, se sali, guarda. Guarda, salite, magari riuscirete a salire. Anto, vedi per scendere, il problema è scendere. No, devi stare attento come metti il piede, altrimenti ritrocchiamo la mano di un gusto. Anche salire è un casino, perché devi prendere lo slancio. Ma lo so, quella bottola lì ce l'ho vista, ce l'avevo a casa di mamma, uguale identica, quindi già la conosco. Ma adesso hanno inventato quelle bottole e tu come scendi la bottola si scende giù la scala e non fai altro che salire sulla scala e si arriva. Ma quella non è così, chissà dove metti giù la scala. Dove hai appiccato con la scimmia, chiede. Giuseppe, perché fa chiaro. Copo di rito. Ma gamba, io non Giuseppe. Però io ci sono passato giusto per andare a vedere il testo. K di positivo. Una domanda, Antonio. Ma il buon Giuseppe per le pacchiara ha sigato di ancora? Ma gamba. A voi, Giuseppe. Hai visto scendendo, succhialliamo. Gamba sera, tru. Se no sull'asta dell'antenna, sul tubo dell'antenna. Quello non l'avrei mai fatto io. Perché? E mica c'è il pericolo. Tanto guarda, si muore una volta solo, la seconda volta ne daranno come opportunità. Non ci abbiamo pensato, me. Allora, Luca, quanto è alto il palo? Quanto sarà Gianni? Sarà, penso, 5 metri, 4 metri e mezzo. Cappa di positivo. Però vedevo benissimo il centro di Sassari da lì, Vedevo il ponte Rosello, vedevo tutto le cose Sassari vecchio, il grattacielo. Vedevo anche la tavola da lì, Gianni. Quello che c'è fuori, altro, un metro e mezzo dentro ce n'è stato. Vedi, non ci abbiamo pensato, Giuseppe. Magari in qualche maniera far salire a lui e ci arrivava bene staccato il PM. K di positivo, però il discorso era poi far riscendere Gianni dalla bottola. Ecco, dai, in qualche maniera ci riusciamo. Al limite se proprio non ci riusciamo chiamiamo un vigile del fuoco. Il discorso è che dopo che ho messo il PL, magari non mi vedevate più sul tetto. Addirittura, l'hai superata un'altra volta, ma la potevi superare adesso. Figa, ci ha chiamato Falchetto. Avanti. No, c'è stato un break, fatemi entrare. Avanti break. D'accordo, sempre io sono in ritardo. Da questa parte abbiamo uccidato, ho capito che era fatto un campanato nel discorso, quindi lo mettiamo in momento di distanza. Cava cava, dai, passa via. A far cava, passa via chi l'ha detto. Ciao Alex, no, mi hai sentito. No, vabbè, io sono morto di fine, un po' di forte, no, però non passa via. Tu hai detto passa via. Perché c'ho una piazza di ricordo che mi ha via. Ma che? Guardi Giuseppe. Ma che? Via. Ciao Alex. Ciao Alessà, benvenuto anche tu nel magico mondo del Circo Orfei. Abbiamo anche gente che sa andare sul trapezio qui, Anzi, volevi a Giuseppe domenica, piccarina dell'altra antenna, appoggiato con la scala nel palo dell'antenna, che dondolava, ha tutto dondolare per staccare il PL, e l'altra capigliuglia che dopo se la vedi e guarda, è una cosa in più che salire. Infatti io che ancora vado giù con il suolo, aspettando che da un momento all'altro si potesse verificare qualcosa. appena abbiamo fatto pace, capo, era ancora terrorizzato, poverino. Se c'è un'altra parte, eravamo impossibili che la non aveva arrabbiato. Ah. Tu come l'hai visto? Ma guarda, io l'altro giorno l'ho visto male in quel capiano. E talmente si è spaventato che in questi giorni in passato è stato attaccato un'altra volta. Ignorato, E la cagata di Gabriele rimane. Stamattina ho visto quella da parchetto. Che è un avvento che vuoi che c'ha da Roma? Ah, visto dai, arriti l'avvento. Prego, avanti. Ciao, sono io, mi sentite ora? Ehi, io. Ma come faccio entrare? Cosa è successo? Perché ti ha portato via l'altro amico Carburo? Perché stavo facendo delle prove, perché stamattina, che stasera quando mi stavate sentendo, non mi sentivate male, c'avevo problemi. Grazie, raga, ma adesso è risolto, sì. Che me ne pensi? Yogi? Dimmi che è stazionario. No, no, adesso vado a mangiare. Non è stato adesso da travaglio. Vabbè, ma le stazionarie fatte così, mi gli metto un pochino d'olio, un goccetto d'aceto e una delizia. Voi come mi sentite ora? C'è la polverina, lo spray. Oppure viene il buon Giuseppe a sistemare le stazionarie e fai mai. Tipo Spider-Man, su chi andiamo? Perché? Se mi vedete domenica anche il mantello svolazzato insieme all'asta dell'antenna e... Ammaga, tu sei un pericolo pubblico. Comunque ho controllato bene la cosa e l'ho constatata proprio con il mio corpo, che il palo dell'antenna regge. Vuol dire buona. Sì, non hai detto, ci devo andare io per constatarlo bene. Devo allargare di altri, senza offesa, per carità, dovrei allargare di 60 per 60 la botola per salire, la seconda botola, e il buon Bombo lo può confermare. Acappa, era visto giusto io, ma te ne oggi tu. Ma io dimagri tanto, quindi magari ci passa. Ma magari ci passi, ma dopo dico un gaffo che mi ha sciupato. Ma cosa c'è subito la finestrella ti appare davanti? Un male. Mi sembra che hanno dovuto togliere le regole. Ma così è, non ce n'è di posto per passare. Negativo. Appare che qua siamo. Va bene. A non sbidere, anzi, non lo intende. Alza la vista. La pagava. Alza luego. Allora, praticamente è così. Dopo che sali su devi passare sopra le trappe. Ma devi stare un bel attento, invece che metti la scimmia. Altrimenti ti cudi subito un capo. E dopo sento il piede dalla trave di fare l'appartamento come ti ha fatto vicino l'appartamento di mamma, ma ci ha fatto un gullacchio dentro la soffitta che entravano nella camera, abbiamo sentito questo rumore bruno di calcinacci, siamo detto troviamo questo piccolo che abbiamo appeso lui, c'è la farina della camera rossa. Ecco, riprendo io ragazzi, vi saluto a tutti, pure RT da parte mia. Saluto a te Gianni, a Giuseppe, Vela, Antonio, a Sandro e chi piacere di Veretta. Buonanotte e buon mattino da parte di Falchetto. Ciao a tutti. Ciao Falchetto, dai, buonanotte, ci sentiamo, avanti piano. Ciao Falchetto, ciao, ciao. sentiamo tutto domani. No, perché la giro salutate. Buonanotte. Buon c'è ancora. No, ragazzi, tu avanti, capato. No, fa che, come di nome la rotante. Ciao, K2, anche a te, dai. Salutoni di nuovo a tutta la ruota. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, anche, ci sentiamo presto, dai. E buon QRT 144, quando lo fai, dai. Ci sentiamo presto e se coincide domattina, tutto. Ciao e buonanotte. Ciao, Giuseppe, buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Fa riprendere a K2, dai. Riprende il tesoro, attivo che sto facendo la cosa. Io sono entrato un altro io. Buonasera Natalino. Buonanotte, buonanotte. Ci sentiamo, dai, che sto chiudendo. Sta pagando. La persona secondo me non è entrata. Anche non è entrato nessuno, cosa vuoi che ti dia? Vabbè dai, no, no problem, già ne parliamo domani, ciao già. Ciao, ciao, vabbè. Oh, se domani hai problemi fammelo sapere. Sì, al limite dopo che hai accompagnato Marco, puoi salire a più guardi. Vabbè, ok. Ciao, ciao. Ciao, Natali. Ciao a tutti, buona notte. Ciao Natali, ci sentiamo presto. Ciao e buonanotte anche a te da parte di Giuseppe. Dai, dai, cappa. Cappa, cappa. Natalino sta mettendo il pigiama. Vabbè. K2, K2, riprenditela, riprenditela, non avere timore. Timore non c'è. Non so che dire. Vai Giuseppe. Giuseppe. Avanti. Giuseppe, dare che fino delle merende. Io vi do per segli. Andiamo a rompere il cestino della merenda. Giuseppe, guarda sabato la risolvere abbiamo un altro metro, Che cosa? La tazza del Peter? No, no, la tenda, così guadagniamo altri due punti, dai. Perta, manco se domani dovesse piovere oro d'argento. E mi da andare a farci la spaghettata sabato che sole fare l'antenna, vero Giuseppe? Cappa di positivo. No, guarda, l'antenna per me può marcire di su adesso, proprio non dovendo avere problemi, mi auguro il più tardi possibile, se dovessi avere di nuovo problemi con l'antenna mi vendo tutto. Fate tragica. Mi sono ustionato, mi sono distrutto. Sono fatto due giorni fate facendo la scimmia e non mi hanno pagato, e più tragica di quella la volete. Sta pagando adesso, dai. Cappa, io ho sbagliato mica mettendo il coso lì, Giuseppe è tornato. No, l'uomo ragno colpisce ancora. Cappa, vabbè, anche non serve più quella, ne cambio un'altra. No, Pierpaolo, guarda, io ne ho una dentro che ha la base magnetica. Mi sentirà solo Gianni, però poi impara la passaparola, come quando un impiatto che scende a casa. No, dai, non dire così. Allora non c'hai la passione. Sì, la passione ce l'ho, però ci tengo anche alla mia vita, Beh, adesso è stata la prima esperienza, ma la seconda esperienza non è più così, no? Adesso perché hai dovuto abbassare, sollevare, fare queste cose, ma la prossima esperienza io auguro che ne abbia molta più di adesso pure, perché andando più là poi ci si fanno tutti i ragionamenti, si capisce meglio, capito? È un errore come l'hai fatto adesso, non lo faresti mai più, avendo, certo è che non è da augurarsi adesso, ma dico, auguro che sia molto, molto lunga la tua permanenza sulla 27, ma sicuramente andando in là con l'esperienza che hai fatto e che farai, non lo farei più che ti sbagli. Quindi, di conseguenza, lo rifaresti, ecco. Giuseppe, anche perché avrai 66 7 anni, infatti. Diremmo che fra 10 anni, ne avrò, ci siamo. Sicuramente io non ci salirò lì. Io ti vado uno di più se ti ha fatto avere. Ma io invece ti auguro non fra 10, ma anche fra 30 e 40 di salire ancora lì su. Non solo di 30 e 40, ma anche di più invece di essere così di salire lì su. Io te lo auguro di tutto il cuore invece. Io ti ringrazio e contraccambio al 100 Pierpa, perché questi sono degli auguri da tenersi ben distretti e caspita, ci mancherebbe altro. Sì, diciamo che anche come dicevi tu poco fa, giustamente, attenzione, sono sempre esperienze che ti portano sempre a migliorare. Certamente, non ti devi augurare che sia così, diciamo, ma io per non te lo auguro, ti auguro bene, che fra 35 anni di cambiare l'antenna, va bene, 35, e di avere le stesse forze di adesso. Scappa di positivo per Paolo, altrettanto a te e a tutti quelli che sono qua sul 10. Di cuore però proprio, perché diciamo che nonostante tutto, cosa dire, sì, avere le stesse forze di adesso fra 10-15 anni sarebbe come fare un terno all'otto. Nella vita non si può mai sapere, dai, oggi siamo così e siamo un pochino stanchi, domani chi lo può sapere se magari fra 6-7 anni ci possiamo trovare anche un attimino più in forma, ma tutto è possibile, mi piace. Guarda, Gianni, per esempio, già 57 anni, però sul tetto sale ancora e ne piacerebbe un'altra miglia antenna. Avendo un tetto e la cosa della terrazza che ha già, mi a quest'ora ne avrei piazzato 6. Ma per quello dovrò chiamare invece per la 1 Pinocchio. Perché dice le bugie. Come dico le bugie? Ti sente sono tuoi, io ne ho 50. Io lo so, poi io ogni andato in tempo che ti devi dare 57, a volte ne sei cavalli, boh. Nessuno. Ma io oggi sempre gli auguro una cosa invece, di mettersi l'antenna nuova su un tetto a terrazza come il mio, che magari cambia casa e fare una casa grande con il tetto a terrazza, così almeno non ha problemi. Cappa, lui ne avrei piantato 4 l'antenne. Lo so, anche io per me l'avrei fatto, ma siccome ci sono i condomini che sono di giramento di palle qua e ho dovuto fare non poche lotte per metterla su. Ma che poi io dico, con che fastidio da, io avrei capito, bene, ce l'hai sulle spalle, effettivamente ti posso dare anche ragione perché hai un peso mio sulle spalle ed è così. Ma grazie a Dio, è sul tetto, non dà fastidio a nessuno, non vedo tutte queste rotte di quartiere che bisognerebbe fare. Allora, quello della Mansarda, sai cosa ha detto? Che quando c'è vento qui fischiava e le dava fastidio, non lo faceva dormire. E allora guarda, quello vorrei ammazzato subito. Quello se l'ha già dato via, non c'è più qua. Ha rotto le palle, lo mi ha fatto mettere un tirante perché dice che è la proprietà sua, la facciata è la proprietà sua perché era sopra il suo appartamento. E poi se n'è andato dopo 2 mesi. Figurati. Io passo immediatamente il mic a K2 e vado a bermi un bel trozzo d'acqua, con permesso. Avanti K2 tocca lì. Ma K2 non riprenderà, lascia subito. A chi tocca di quelli che c'erano vabbè, Antonio, vai, prendete la scappa. Ma comunque, ti è andata bene, non ho detto che sono successi i casini, lotte, cantate varie, è andata bene, poi alla fine di tutto. Ne ho avuto un polso io, lì mi sono infiltrato un po' che ci credevo. Fatto bene già. E cavolo, poi c'è anche la comodità che c'è il terrazzo, e non deve fare la scimmia. La scimmia la devi fare lo stesso, perché poi devi salire sulla cabina dell'ascensore, che da giù sembra bassa, ma non è bassa, è un po' alpina. Niente, devi salire sulla cabina, poi sulla cabina devi mettere di nuovo la scala e arrampicarti sull'antenna se vuoi arrivarci e stai io, se cose come sono. Per magari per un altro è semplice, ma a me con le vertigini non posso fare certe cose. Ah, ma fa mula di tirante nella bacia. No, non c'è bisogno di mula di tirante. Basta mollare il bullone, e scende il palo, e la bassi. Poi i tiranti, come la porti su, si rimettono in tira. No, ma quando è atterrato è tutto più facile, una cagupa, lavori meglio e tutto. Dipende cosa devi fare, se devi lavorare sul piede, mica a tiri giù, cosa c'entra? Ci si arriva abbastanza bene, basta che ti giù due cose di palo e l'antenna ti arriva ai piedi. Ragazzi, poi vedremo tutta un'altra cosa, però tutta un'altra cosa. Cosa? Io lì lavoro bene, sopra la cabina in ascensore c'è uno spiaggio, ci lavori tranquillamente. Infatti, quello che ti sto dicendo, che quando è così è tutta una cosa, cioè che lavori bene proprio sulla terrazza, ma gambe capisciuri, amaro. Infatti sulla terrazza noi l'abbiamo montata, l'antenna l'abbiamo montata giù, poi tutti quanti insieme l'abbiamo sollevata, due sono andati a bullone alle cose, alle staffa, fatto io. Sì. Io lavoro tutta a Politecca, detti così, a Tegole. E come abbiamo fatto? Luca Flipper si è messo sopra il coso, sopra la cabina dell'ascensore, ha tirato dal tirante, ha tirato il tubo. E noi, Natalio, Claudio e cosa l'abbiamo portata su? È facile lavorare così, dai. Però l'avete fatta con una giornata tipo come questa di oggi. Ma comunque, fatto qua non ci pensi più. Come questa di oggi, ce ne avrebbe a 120, cazzo, con poco non si può sempre l'antenna che antuina. Avevamo deciso di piazzarla e piazzata l'abbiamo. Vabbè, i così tiranti, con la verità, abbiamo messo i posticci così, li abbiamo legati così alla canna fumaria, eccetera, eccetera. Poi il giorno dopo che si era calmato, sono salito, ho fatto i buchi col trappa, ho messo i tassini, e Natalino abbiamo messo i tassini, tutto quanto rivestito come nel tetto di Catrame, attorno abbiamo messo silicone nero per non vedersi, e ti dirò che è stato un bel lavoro, e tirati bene, messi i borsetti dopo i nudi, in modo che non si sciolgano. Ho fatto un lavoro a regolare con l'infinitudine, ma sì, per certo. Poi c'è buono così. Ma comunque, in qualche maniera già è andato tutto bene. Cioè come abbiamo fatto la Massimiliano, una catena di montaggio, una valzia l'acqua, se non valzia l'altra, e pochi metri abbiamo fatto tutto. Sì, se ognuno faceva la sua parte. Beh, è stato di lusso, abbiamo fatto tutto, una bella vulcanizzazione, tutto bello fatto accuratamente. Bisognava filmarlo il giorno. Davvero, vai a metterlo su internet, il montaggio della Mantova 5 di Bulldozer. 1. E vabbè, Mantova 1. Avanti, Giuseppe. Eccolo. È mio, diciamo non l'ho filmato perché sennò ero d'arresto, sennò già si poteva filmare anche il mio. Magari come ti riprendevo per definizione. Ebbene, figurati, e caso mettevano su YouTube. L'emozione del volo. L'uomo volante, Circo Moira Orfei e Company. Adesso ce ne possiamo ridere, Giuseppe, ma la mattina, la sera, Guarda, lasciami zitto, se vedi come ho la mano, ti metti le mani in testa, dai, se vedi la bruciatura era più seria di quello che sembrava comunque. Ci vuole un po' di pomata, un trattamento. Ne ho messo, però se vedi com'è capo, era bella seria comunque, è bella seria come bruciatura, perché i primi giorni sembrava così, però poi è andata in profondità. Ma era bella. La bruciatura fa così. Dopo i primi giorni solitamente fa male cose, poi dopo una settimana comincia già a chiudersi, dai. Sì, sono d'accordo con te, però è proprio il discorso di quella settimana, che il dolore più intenso, mannaggia. E poi anche la stupidità mia, che con il saldatore attaccata alla mano non riuscivo a attaccarmelo. No, si è attaccato. È cappa di positivo, perché come io l'ho preso da terra, il filo si è incastrato sotto la scrivania. Ed essendo tondo il salvatore, diciamo che mi è scivolato qui tra la mano ed è andato proprio ad attaccarsi nella parte calda. Diglielo altro che profumino c'era qui. Digli a Gianni che profumino c'era qui dentro. Cappa di positivo, ma un dolore qui. Ci posso credere. Vabbè, bisogna stare attenti una volta a me. Io ho sempre l'abitudine di metterlo, c'ho il portasaldatore. Il giorno volevo fare in fretta, non capisco, e ci avevo il filo che era corto, arrivava giusto al tavolo, che arrivava là per lasciare la storia, e mi è scivolato e mi è andato subito, ma dolore a ridere, però io avevo, a me mi si è staccato subito perché è caduto in terra, no? Però la bruciatura me l'ha fatta. Lo so, però io il giorno c'era anche un pochino di scoglionamento, il cavo la verità era corto perché non ho messo quello che uso sempre per il saldatore, e quindi è giusto che poi andasse a finire così. Sai cosa c'è? Quando comincia male finisce male, Giuseppe, è sempre chi sarà io, perché poi ti nervosisci sempre di più e fare le cose come non le devi fare senza pensarci. Cappa. Avanti, caro Gama, ti sta prendendo l'abbacchio. E io mi sto abbacchiando. Non la biocco. No, mi sto abbacchiando. Mi sto sorrendo le oggi perché ieri notte poco dormito e facevo la gamba e quindi poco dormito. E stasera ti dirò che avevo lavorato quasi colpo di sonno, Questa assegno, mi sto abbacchiando. La macchia ragione. Io sto prendendo queste tombe di volte da bacchio. Io di capiocco. No, tu di da bianco. Va bene, dai, lo scriviamo nel librone. Io lo so che si chiama la biocco, ma io dico come dici tu. Tu dici la bianco, io dico la bianco lo stesso. Non sbagliato una volta, io non si può mai sbagliare. Aspetta, che è rimasto in bianco, c'è cosa, c'è anche capato. Ha chiamato 7 volte e non è venuto avanti. Papà 2 ha detto poco fa che doveva far conto, siete distratti. Avanti, chi era? Chi era avanti? Ero io. Tu non sei capito chi era l'altro, eh? Era. Chi è papà? Ero io, ho detto che K2 eravate distratti e ha detto che doveva far cosa? Ah, tu parola io l'ho sentito. E anche Gianni l'ha sentito perché l'ha chiamato già due volte, anche poco fa l'ha lasciato bene, ma non ha risposto. Di positivo, non so, io qui penso che siano le 10, vero? 10 e qualcosa. Non c'è un orologio qua adesso, dove è sparito il mio orologio? Neanche l'orologio, meno me. Allora sono le 22:13 e 25 secondi. Campa di positivo, cosa ne pensate se Giuseppe chiude le trasmissioni e si infila sotto le coperte? Domani dove sei Giuseppe? Prima ti facciamo l'interrogatorio, poi ti diciamo cosa ne pensiamo. Domattina io sono in giro da presto e devo fare ordine e tempio. Campa, non sei tanto lontano allora. Vabbè, qualche minuto ancora, potresti intrattenere. Quanto mi date? No, sai, no, sino e mezza, mi hai permesso, va. Mezzino vuoto. Come Pierpa? Un tramezzino vuoto. No, mamma mia, non mi zecca tramezzini, basta. Un succo di frutta. No, non è quello qua, tra succhi di frutta e bitter cadete, solo a sentirvi parlare mi sta prendendo male. Ho una bottiglia dell'acqua qui, guarda, va benissimo. Ti sei più ubriacato a bitter e a succhi di frutta? Lascia perdere, sono andato in overdose la settimana scorsa di bitter. Va bene così allora, e va bene, abbiamo bevuto anche al bar l'altro giorno. Per carità, però su al quadrato mettono la scorza del limone, hai visto giù domenica, lì c'era mezzo pappo di limone, senti a me, di arancia, e domenica quella ci ha messo proprio una bella fetta, era 2,5 dentro quel bicchiere di fetta di arancia. Ma quella è polacca, non la capisce. Capa, ma ho capito io quanto era buono, però così. Dove darle la mano? Cazzo, Mari era bambino. Cava. Va bene così, anche sorridendo. Ma per prima della passata. Per Paolo, mi lascia coperta di una due nel buio. Ma è che è uscita bene mia moglie che ha approfittato a dire veloce, madre figlia. Cava. Porcellolo! Che ho rifiutato adesso per questo anche io, madre che ho figlia. C'è vento. Su che si arruola? Non ti ho capito per fare, ripeti. Che vuoi sapere chi era questo madre figlia? Ah. No, dove ti prego, che la farò le scale da noi. Non mi pare parlare. Cosa ha detto Anna, dimmi? Mi ha mandato in un paese di sogni. Ah, dove per fare le spese ci tempo un mese, così? Via. Cappagarca. La mattina. Che la farò le scale, madonna. Guardate. Oh, e non parla che ci affianca a me quando si inchina. È buona, è buona. Cartello perché gli si girano gli occhi. Antonio. Non ci addollano le cibate. Antonio. E dimmi. Indirizzo il numero civico, per cortesia. Come siamo noi? K di positivo. Appaga, appaga. C'è un palazzo su a Tempio ed è tutto uno spettacolo. Facciata tutta quanta in vetro chiaro in antesfondamento con annesse tutte le scale, quindi figurati tu se ti fermi un attimino lì che cos'è. C'è proprio speciale a sfondare. Guarda, ed è un continuo via vai lì, diciamo che all'entrata no, è quasi al centro di Tempio rimane, ed è un palazzo con le suddivisioni dei piani fatti in cristallo, però vedi tutte i cosi, no? Tutte le rampe delle scale dentro, ma non è molto simpatico comunque fatto così, perché dipende da come ti vesti, la gente che passa sotto, cioè in chi vi devi passare proprio solo in pantaloni. Ma io conosco la discoteca che c'era così. Praticamente ti specchiava le ragazze che ballavano, si vedeva tutto per il zoma quanto c'era. E poi? E io. Capo. Quando siamo andati in continente, abbiamo trovato la discoteca così. Ed è vicino a Pisa. Bene, io mi sono trovato la botte, perché non gliela faccio più, mi stanno chiudendo giù. Buonanotte Giuseppe, buonanotte Candido Piorrumo e tutti gli avventori ascoltori, buonanotte e ce la riascoltiamo domani. Comunque Gianni, 2-0 palla al centro, Appaga. Ciao, buonanotte. Stiamo bene, buon lavoro. Avanti Giuseppe. K di positivo. Ciao Peppa, serena notte. A te, guerriera familiare, di casi altrettanto, e buon trabacco per domani. E se coincide ce la risentiamo quando rientro, Pierpapa. Io sul 5 provo a tirare due zichirri rientrando. Se ci sei è bene, se puoi rispondere altrettanto. Se no ce la risentiamo quando coincide. Ciao Pierpapa. Adesso che la vita lì. Di sera, consegne permettendo, siamo sempre alla radio. Giuseppe, verso che la vita. Ma guarda, io penso di rientrare prima di pranzo, perché se parto presto riesco a svegliarmi presto, perché a Olbia devo fare una consegna, poi da Olbia a Tempio io in 40 minuti riesco a salirci. E su a Tempio mi scaricano col carro ponte, quindi fanno una cosa veloce. E penso di essere qua prima di pranzo comunque. Io non sei carico domani, dai. Pieno carico? Pieno. Andare. Vabbè, ma se trovi tutte queste macchinari che c'hanno, per scaricare si fa prima. E con la gru devo fare solo uno scarico domani, con la gru del camion. Poi, come vado su a Tempio, mi scaricano loro, perché hanno il carro ponte e niente. Io devo solo rimanere sul camion e imbragare, dopodiché fanno tutto loro. E lì ho la pacchia. Appaga. Meglio, va bene allora. E dove scarichi? Dalla tela nera, sempre, no? Sì, ma laterale e come già? Da dietro oppure dal laterale? No, sempre laterale, no? Non ci sta problema. Gli apro tutta la cintura, dopodiché possono scaricare come vogliono loro, per me non c'è problema. Ah, capito. E va bene. Diciamo che già è una cosa più veloce la tua, fai chilometri, ma meno male a mano, non è che non penso che fai sollevamento pesi. Da... Ma sollevamento pesi adesso no, ma prima quando avevo l'altra macchina, tra togliere il telone per ogni scarico che facevo, rimettere il telone, delle volte ti cadeva, lo dovevi piegare, un telone che pesa più di 30 kg, e mettertelo sulle spalle, portarlo su, guarda, io mi sono rovinato la schiena anche per quello. Sì, io lo so perché quando vengono gli articolati da noi, molte volte li pieghiamo insieme in cerone e poi glielo portavamo su col muletto. Quando lui lo va a mettere su, glielo portavamo col muletto, con la, mettevamo una pedana e lo portavamo su col muletto. Capa, e figurati noi che muletto non ne abbiamo, ce lo dobbiamo portare su a mano. Cazzo, è una cosa pesante questa cosa. Ehi, a me non viene a dire quanto è pesante il telone. Voi 23 anni tribolando col telone. Io già ce l'ho avuto lo stesso nel 40 il telone, per carità. È una rottura di palle, si gonfia quando c'è vento, mamma mia, qui si sbatte. A parte quello, poi secondo quante scariche devi fare, lo sai quante volte è capitato di scaricare fuori da clienti, arrivare il colpo di vento e buttarti tutto a terra, ripiegarti intero, da solo, da una parte lo pieghi, arriva il colpo di vento e dall'altra te lo riapriva. Perché bisogna essere in due, noi gli davamo una mano quando venivano articolato da scaricare, perché il telone ci chiedevano sempre la mano, quello che veniva Pasquale, quello che viene da, quello che porta l'acqua a San Giorgio, da sinistra, quello lì lo chiamo Mangiafuoco, e mi diceva già, ma dà una mano, noi c'avevamo il capannone davanti, c'era lo spiattogrado, lo mettevamo in terra, prima ha piegato in due, e poi ha rotolato. E lo facevamo insieme. Anche a me delle volte quando li trovi di buon umore, un colpo di mano te la potevano dare, però la maggior parte delle volte lo facevo sempre da solo. Negoziedro fuori, una cosa pesante, non è... anche quando devono, per dire, alzare le sponde, io le alzo sempre, quando le sponde sono grandi, e le alzo sempre col muletto, e le alzo poi di punto, spingo col muletto e lo ci richiudo. Giuseppe, vorrei chiedere una cosa del genere. Anche al tutto. Però perché? Il tuo camion deve avere solo quel coso, quel rimorchio lì, o ne può agganciare anche altri? Posso agganciare anche l'altro, quindi diventa autotreno. C'ha la rada, c'ha come tutte le altre. È cappa di positivo, questo qui ha la ralla sportabile e quando devi agganciare il rimorchio dietro la puoi inserire. Quindi già questo è interessante il discorso, non perché volevo capire quello. Ehi vabbè, già si può mettere su. Addirittura ho visto un furgone con il rivolto, l'ha mai visto Giuseppe? Io ho visto il Bridi fatto ad articolato. Ehi, a segnare il rimorchio lungo, come te lo piazzare i simili? Ehi capa, quello era il valore, una volta tappezzato quando c'erano le elezioni qui, no? Quando poi hanno fatto sindaco, la testa di sindaco che abbiamo attualmente qua, no? A Sassari. Paga. E infatti mi sembra un furgone pubblicitario, dai. E quello qualche parte che si porterà con la Eva. Negativo, con la B. Ah, non penso, così lungo. Sì, con la B non c'è nessun problema. mi sembra strano, perché è un bel lungo quel rimorchio, pensavo di no, pensavo colare. No, no, non c'è problema. Tutti guardati che con la B puoi portare macchina e roulotte attaccata, con la B puoi guidare il camper, con la B puoi fare tante cose, non è, dipende sempre in base a quanti quintali puoi caricare e ci vogliono le patenti. Vabbè, già lo so quello. Vabbè, quello lì non porta niente di, non penso che lo usa solo per un fatto pubblicitario. C'è anche quello camion Vela a Porto Torres che circola con la B, mi pare, un furgone Vela. Sì, ma sono furgoni che porti tranquillamente con la B, non c'è nessun problema. Non c'è, ti ripeto, tu figurati che con la C tu puoi portare sia il camion come ce l'ho io, in più puoi attaccare il rimorchio che è lungo quanto la motrice e attaccando quello lo trasformi in un autotreno, ok? Sempre con la C lo porti. E vabbè, sono l'unico l'auto articolato. L'articolato, ad esempio, se porti solo il trattore la puoi portare con la C, se poi agganci chi ci vuole dai. Paga. Vabbè. Comunque buona sapersi. Io pensavo di no, girando ce lo compriamo quella specie di camper, ce lo facciamo a camper e lo andiamo in giro. Dire che ti girassi. E tu ce l'hai l'AES? Io ho tutte le patenti, dalla A alla E. Io ce l'avevo per il maestro del scuola guida. Lo so, me l'avevano anche proposto, ma non mi interessa, perché porta via troppo tempo e col lavoro che faccio, guarda, mi scendi da un coso, mi scendi da un mezzo e poi ti devi sedere lì a mattalarti la testa, ma non ci penso nemmeno. E poi c'è questo Giuseppe, penso che ti bidi a capo, con tutto il casino, le domande che ti fanno, alla fine non avere male di capo. E infatti non ci penso nemmeno, guarda, per l'amor di Dio, o ne fai uno di lavoro o ne fai un altro. Già guarda, il lavoro che sto facendo, guarda, ritornando indietro ci avrei pensato non una volta ma mille volte prima di coso, di buttarmi a fare di nuovo il camionista, per carità. Lo so Giuseppe, anche io per me la stessa cosa. Tu pensi che ho mollato, non facevo l'assicuratore, ho mollato l'assicuratore dove lavoravo, tra le vite, la mi dicevo vedo da maravilla. E ci posso credere già, perché delle volte si tenta sempre di migliorare, invece poi rifierrappa a casa e ti accorgi che bene o male non bisogna lasciare la strada vecchia per la nuova. Ah beh, questo sì. Ma tante volte se il ragazzo non ci pensi e le fai queste cose, ma lì già stavo bene, era sempre la valigetta, vestito di cravattata, tu tranquillo, non facevo chissà quanto lavoro, sì lavoravo ma non era così stressante. Non ero in officina a te. Come? Era in officina prima. Cappa. Ho fatto solo quello o qualcos'altro? E ne ho fatto io dei bei lavori. In officina ci sono stato da ragazzino e sì, la servizio militare l'ho fatta tranquillamente. E, ti ripeto, la mosca dal naso riesco a togliermela perché se devo fare qualche lavoro alla macchina non ho bisogno che mi insegni niente nessuno. Dopodiché sono rientrato, ho preso le patenti, mi sono costate un occhio della testa perché io ho sudato qui, ho studiato e me l'ho pagato profumatamente le patenti che ho, e dopodiché niente, la passione è stata sui camion e così me la sto portando dietro. Purtroppo, ma va bene, lavoro come un altro, l'importante è che corro il stipendio ogni mese, tu non ti puoi lamentare, sei fortunato, diciamo, ma pensa a quelli che viaggiano, stanno mesi e mesi viaggiando. Lo so, però anche lì c'è il tornaconto, perché anch'io quando andavo su, in continente, lo stipendio non era quello che prendevo, che prendo adesso, eppure l'ho fatto stare una settimana, 15 giorni fuori, però poi come rientri a casa ti sbrighi tutte le cosette che hai da fare, tutto il cambio che ti hai portato dietro, trovi sempre qui tua moglie che te lo sistema, te lo stira, te lo fa, ecco. Però ripeto, a fine del mese non è come quando stai qui in Sardegna. Molto di più, vero? Io prendevo 2 volte al mese quello che prendo qui adesso. Alla fine ne vale la pena. Certo che ne vale la pena, perché se qui prendi, che ne so, 1.300 euro, là arrivi a prendere anche 5.500, anche 6.000 euro riesci a prendere. Sì, ci sono sacrifici perché ti devi anche sposare, attenzione, devi mangiare, devi dormire non tanto, perché per dormire o dormi in camion oppure viaggi la notte e poi l'indomani mattina mentre ti scaricano riesci a dormire, a spezzettarlo un pochino l'orario del lavoro, no? Ma non è tanto quello, le poche spese che hai era giusto per mangiare, la colazione, la cena e quelle cose lì, qualche piccolo spizio che ti vuoi togliere e poi niente, tutto il resto lo portavi a casa. Cos'è che rimane un pochettino così, senza magari rimane una settimana un po'. Dico, magari senza lavarti, senza coso, però alla fine se la cava. Anche per quello ci sono le cose, le scappatoie, perché dove vai a caricare o scaricare lì hai voglia, docce, bagni, proprio su quello non c'è problema, stazioni di servizio attrezzate le trovi. Non è quello, il discorso è che stai fuori di casa. Gappa, è purtroppo una scelta di vita e si fa anche. Gappa di positivo, sai quanti amici ho ancora su in continente e quante volte ci sentiamo? Ci siamo sentiti anche a Bantieri con Sandro, con Squalo, guarda, ne potrei nominare una ventina uno dietro l'altro, e fanno sempre lì, quando sali, quando vieni, quando mai lasciatemi stare la testa in pace. Lo so, ma già si può, magari quando sei in ferie, andare a trovarle. E poi ricordati che quando vai su non sei mai da solo, cioè parti da qui da solo, come spesso parto io, no? Arrivi giù a Porto Torres, si imbarchi col camion e via. Una volta che sei sulla nave ne incontri 20, 30, poi come sbarchi a Genova ne incontri... guarda, è come che ci sei sempre stato, mi su. Esperienza. Tu prendi già, io riprendo, mi saluto tutti cordialmente, mi faccio una bella pedichetta. Ciao Giuseppe, buon lavoro per domani, e ciao Antonio, buon lavoro anche a te. domani, dai. Ci sentiamo domani con più freschezza, perché adesso bisogna godere un mese. Ciao, Polano. Di positivo, dai, ciao già, buonanotte e ci sentiamo domani, dai, adesso chiudo anch'io perché anche per me si è fatto tardi, perché domani si trabacca alla grande. Andrò, buona notte anche a te e buon inizio di trabacco per domani, ce la risentiamo se coincide domani, dai, vedo di chiamarvi ogni tanto quando sto rientrando, se potete rispondere io sono sul 5. Ciao, buonanotte Giuseppe, ce la risentiamo domani, ciao.